Vendo tutto di Matteo Caccia. Einstein sosteneva di poter vivere con solo quattro oggetti: un violino, una penna, un orologio e una giacca di pelle. Tutte cose regalategli dalla moglie. Violino, penna, orologio, io li ho già venduti. E vado avanti, non mi fermo, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo quattro anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un tappetino per lo yoga. Che può far ridere, un tappetino per lo yoga. Però è comunque un tappetino per lo yoga. No, giusto. Radio24.it oppure Matteo Caccia vendo tutto su Facebook per vedere la foto del tappetino per lo yoga, perché adesso vi spiego anche il motivo. Avete presente quando vi viene un po' d'ansia, no? Che è quella roba che la senti che ti arriva e dici oddio, mi viene un po' d'ansia, mi sta venendo. È capitato anni fa, insomma capita a tutti credo. Mi è capitato anni fa e ho deciso che lo yoga poteva essere la mia soluzione. Vi spiegherò meglio a breve com'è andata la cosa. In quell'occasione, come al solito succede quando faccio qualcosa, mi comprai tutto il necessario per fare yoga. Ovviamente tutto il necessario di prima qualità, non di qualità media o bassa. E ora me lo trovo banalmente nel groppone. E quindi vendo anche questo. 80024 0024 oppure 349-238-6666. Quel tipo di ansia lì è quello che sta venendo un pochettino a Laura Faggina anche in questo momento. Perché sta disperatamente cercando, da ormai credo un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, l'ascoltatore con cui avremmo dovuto parlare in apertura di puntata oggi. Sapete che mi piace sempre fare una mappatura degli oggetti che ho venduto, dove si trovano, chi ce li ha, cosa se ne sta facendo, come li usa. Oggi era il caso di Fabrizio. Fabrizio, non so se avremo più modo di sentirti, avevamo un appuntamento telefonico alle 4-5 minuti, però purtroppo Fabrizio non c'è. Fabrizio è quello che si è comprato il mio contapassi, non so se vi ricordate la puntata in cui raccontavo della corsa e del mio podometro o contapassi. 800240024, non per far passare l'ansia a Laura Faggin, ma per raccontarmi invece come quando capita a voi, che cosa fate per farvela passare, proprio in quel momento lì, quando sta per arrivare e dici oddio, sta arrivando. Ci sono persone che fanno le cose più svariate. Prima su Facebook il gruppo di persone che ascolta e legge la pagina mi ha mandato diverse soluzioni. Allora Alberto mi dice: l'agricoltura, provata in prima persona, coltivare un orto seguendone tutte le fasi, dal dissodare la terra alla raccolta, aiuta a scaricare l'ansia e la rabbia repressa. Antonio, un bel assalto di sciabola, la cosa migliore per scaricare l'ansia e le tensioni. 80024 0024 per raccontare il vostro metodo, oppure 349-238-6666. Stefano ancora: correre fino a quando non hai più le forze, rientrare a casa con le ultime energie e non avere più nemmeno la voglia di pensare. Chiara, hai un cane? Cioè, Chiara lo chiede a me. Hai un cane? Cammina e gioca con lui. Ancora Elisabetta: camminare la mattina alle 7:30. Sono volontaria del Piedibus. E già qua avremo bisogno di capire che cos'è il Piedibus, anche se ne ho una vaga idea. Sono volontaria del Piedibus e accompagno a scuola i bambini delle elementari a piedi. Camminare e sentire i racconti di questi bimbi mi rimettono in pace con il mondo. 80024 0024, perché anche voi ce l'avrete un metodo per sconfiggere l'ansia quando sta arrivando, che dici oddio, sta arrivando. Oppure 349-238-6666. Il metodo che mi ero trovato e che non ha proprio avuto un grande successo era lo yoga, ed è per questo che vendo il tappetino. Radio24.it per vederlo, oppure rimanete qui e questa è la sua storia. Il tappetino da yoga. Tappetino da palestra e da campeggio, marca Saleva, colore verde e arancione. Doppio strato, morbido per l'appoggio sul corpo, rigido per quello sul terreno. Facilmente arrotolabile, lunghezza 1,80 m, larghezza 50 cm. Ideale per chi ama dormire dentro un sacco a pelo o per chi non vuole perdere i contatti con la terra. Valore commerciale 20 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Non sono uno scienziato, però ho sempre avuto una grande invidia per chi trova spiegazioni dimostrabili alle cose che succedono. Perché è bello avere una risposta ad una domanda, ed è meglio se quella risposta non è vaga. Non sono mai stato un tipo ansioso nella mia vita, mi svegliavo tardi la mattina, non avevo paura delle interrogazioni, di perdere il tram, non avevo paura neanche delle reazioni di mia madre. No, in fondo ho sempre avuto paura solo per delle cose serie, tipo le malattie. E questo penso che faccia di me una persona ragionevolmente normale. Come tutti però, ho spesso avuto a che fare con persone angosciate o ipocondriache, soprattutto a scuola e successivamente poi in università. Rossori, pallori, fronti sudate, mani ghiacciate, respiri affannosi, insomma, di queste robe ne ho viste parecchie. E ad una persona ansiosa basta poco per essere in difficoltà, eppure pur conoscendone i contorni non l'ho mai compresa fino in fondo. L'ansia, intendo. Sì, direi che sono una persona razionale. Oppure no, solo fortunato. Fatto sta che da sempre mi chiedo, ma cos'è che determina l'ansia? Cioè, è qualcosa che si può rintracciare, che si può curare, sempre che sia una malattia poi, chiaramente. Come tutte le domande buttate lì a caso, è bastata una situazione di stress, piccola, semplice, come un esame all'università, a mettermi in allarme. Ricordo molto bene quel giorno. E ricordo anche il reale senso di panico che mi assalì. Che poi lo chiamo così, ma forse esagero. In realtà ero solo spaventato da qualcosa di più che l'esito della prova. Insomma, avevo una generale percezione di timore. Ho studiato subito tutti i testi del caso in cerca di spiegazioni scientifiche. Ah, per la cronaca l'esame andò male, ma dopo averlo fatto mi sentii comunque molto sollevato. Indizi che mi confusero ancora di più. Insomma, consultai siti internet e ci ragionai sopra. E finalmente incontrai la ricerca di un etologo che mi convinse. Sì, un etologo, uno che studia i comportamenti degli animali. Allora, lui diceva che l'ansia è la memoria che abbiamo di quando milioni di anni fa eravamo potenziali prede. Ed è l'attenzione a un nemico che non vedi. Cioè, si ha paura di qualcosa che non c'è in anticipo. E così si rimane lì, pronti. Che poi pronti a cosa? E a quale nemico, soprattutto? La ricerca suggeriva che di solito la reazione corretta è combattere oppure scappare. E lo stato d'ansia rimane finché non si è deciso cosa fare. Cioè combattere, affrontare l'esame, oppure scappare, rimandarlo. Era chiaro che l'etologo aveva ragione. Perfetto. Mi fermai alla sua spiegazione perché mi convinceva molto, solo che lui non aveva una risposta. Era uno scienziato, mica un guaritore. Per me la risposta però era facile da trovare. Cioè, se il male derivava dal mio essere ancora un po' animale, andava combattuto. Bisognava estirpare l'animale che c'era in me. E come? Evidente. La meditazione era la mia risposta. L'India, il puro spirito, il nirvana. Dovevo fare esercizio di meditazione e seguire il mio karma. Dovevo andare a iscrivermi a uno dei corsi di yoga del comune di Milano. Sono sempre stato uno competitivo, anche con me stesso, e non ho mai amato l'idea di accettare un fallimento. Tra l'altro, adesso che ci penso, questo potrebbe essere proprio un indizio interessante circa le ragioni della mia ansia. Ma non starò qui a complicarmi la vita. In fondo è da parecchio tempo che non ne soffro più. Comunque, dicevo, sono sempre stato uno competitivo, quindi se inizio a fare una cosa, la devo fare bene. E per farla bene bisogna essere molto attrezzati e ben motivati. Per la motivazione non c'era problema. Ma l'attrezzatura, ecco, con quella non ero messo bene. Quindi comprai la migliore tuta da yoga, il miglior tappetino esistente e delle calze di lana nepalese. Mi feci crescere la barba per sembrare uno che era stato 6 mesi in cima a una montagna e mi presentai alla prima lezione come se avessi già vinto una coppa. No, ci tengo a precisare che la tenuta dell'adepto dello yoga è libera, eh? Cioè chiunque può andarci a farlo come gli pare, basta che sia comodo. Ma io ero vestito con dei pantaloni thailandesi molto colorati, costosi e leggerissimi. Tenendo conto del fatto che eravamo a gennaio, non posso lamentarmi se al primo incontro arrivai congelato e con un principio di congestione, però l'ho presi come una sorta di primo esercizio. Io, ovviamente, in virtù della mia spocchia, mi sentivo già un pezzo avanti rispetto a tutti gli altri. Li osservavo un po' con disprezzo, pensando chissà quali cose assurde avranno in testa sullo yoga. Io invece la materia la conoscevo perfettamente. Ero pronto quasi a dare lezione al maestro, che con mio sommo orrore era italiano. Lo compatì, esercitando la mia ormai mostruosa pazienza e il mio autocontrollo smodato, lo salutai con un inchino e mi misi in prima fila. Il primo esercizio era piegarsi in avanti. Lo affrontai con il solito sorriso di superiorità, mi chinai e mentre tutti scendevano verso terra con le mani, io riuscii a malapena a raggiungere le mie ginocchia. Lì capii che avevi già fallito. Mi sentivo umiliato. Nemmeno il tempo di finire il primo piegamento e mi trovai fuori dalla stanza col tappetino arrotolato sotto il braccio. mi venne un'ansia pazzesca. Oltre al nervoso di aver sbattuto via i soldi del corso della tuta e del tappetino. Dopo una settimana di serate passate a leggere manuali di yoga, però, riuscii a trovare il coraggio e la modestia per tornare. E dopo un paio di mesi ho capito che dovevo cominciare dal grado zero per poter arrivare allo stato di maestro zen. E lì mi sono placato. E devo dire la verità, da allora l'ansia non mi è più venuta. E tra l'altro in palestra ho assunto anche il ruolo un po' dell'espertone, che non mi dispiace mai. Poi è successo una cosa strana, è successo che l'altra sera ho ricevuto la chiamata del mio amico che organizza le partite di calcetto. E lì mi è venuto un magone mostruoso. Quanto mi mancava fare a spintoni con gli altri. Quanto mi mancava un'attività che alla fine uno può prendere in giro quell'altro perché ha perso. Quanto mi mancava il pallone, l'adrenalina, la sensazione di correre come un labrador senza la meta. Ho pensato un attimo alla noia infinita delle lezioni nella mia tutina thailandese. E lì mi sono detto, caro mio, il nirvana non lo raggiungerai mai. Lascia stare e vai a giocare a pallone. Perché alla fine gli altri mi stanno pure simpatici. E mi piace prenderli a calci quando ci vuole. Per cui, nonostante il nirvana e il patentino yoga che non prenderò mai, questo tappetino è in vendita. Il suo valore sono 20 euro, base d'asta 99 centesimi. Per i vostri metodi invece per sconfiggere l'ansia, 800240024. Il mio metodo anti-ansia era salire in moto e andare a fare quattro pieghe. Poi mi hanno rubato la moto. Ettore, qual è la parola che descrive chi non prova mai l'ansia? Ecco, io sono quella roba lì, Paolo. Una bella suonata con la batteria, ritmo rock puro e tosto, Luis. Ah, e poi mi spiegano che cos'è il piedibus. Stefano di Sirone. È un servizio di accompagnamento dei bambini a scuola a piedi. Beh, che era quello che avevo praticamente detto anch'io. Comunque, grazie allo stesso Stefano. 800240024, perché ci sono degli ansiosi che sanno l'ansia come sconfiggerla. Anna da Milano, pronto? Ciao. Ciao Anna, come stai? Tutto a posto? Bene, grazie, sì. In questo momento non sono ansiosa, per brava, fortuna. Brava, però quando ti viene? Quando ti viene? Ma io ho un metodo tutto mio, credo che... è difficile trovare qualcun altro. Mi è successo più di una volta di essere ansiosa e trovare pace nel fare un diretto in un cimitero, il primo che trovo vicino, perché mi dà il riequilibrio delle mie emozioni. Presumo che sia il confronto con l'inevitabilità della vita, perché tu l'ansia ce l'hai nel momento in cui pensi che puoi modificare le cose. O che capito, c'è quindi paura. Tu stiamo volando altissimo, Anna. Tu dici, io vado a trovare i morti e dico, alla fine finirò lì e quindi ti passa l'ansia, banalmente. Non è la questione, sì, di fare una passeggiata. Diciamo che mi mette più in contatto con la vita rispetto a stare in mezzo alle persone vive. Tu che cosa fai di lavoro, Anna? Io lavoro di sera in locale di sera. Perché, perché ti fa ridere? Lavori di sera in un locale di sera, nel senso che... Sì, ho un cocktail bar. Ah, è un cocktail bar? Dove? Qui a Milano? Sì, a Milano. E in che zona si trova? In zona Navigli. Ok, va bene, non andiamo oltre, altrimenti poi sembra che facciamo pubblicità locale, invece noi facciamo solo pubblicità ai cimiteri. Anna, grazie mille, buona giornata. A te, ciao. Ciao, alla prossima. Un rimedio per l'ansia, l'amante. Non so chi sia, so però che c'è Massimiliano da Padova, 800240024. Pronto Massimiliano? Ciao, ciao. Ciao, tu che cosa fai quando... C'hai... Io mi prendo la mia moto e vado a fare un giro senza meta. La moto è una delle cose più gettonate quando c'hai, oddio, mi viene l'ansia. Tu, che moto hai, Massimiliano? Ho una FZ1, una Yamaha, 1000. Mille. Molto potente come moto. Ma quindi tu ti metti tutta la roba, la tuta di cuoio? Sì, mi metto la tuta, mi metto tutto quanto, casco e parto. Io sono da Padova, sono vicino a Asiago, così vado su un attimo sul lato piano, poi scendo 2-3 ore e l'ho fatta. Senti, per capire, chiaramente non è che ti fai un giro così, te la tiri sta moto, giusto? Sarebbe un po' fuori legge, però diciamo di sì. E allora, tra me e te, quanto fa sta moto di velocità massima? Ma arriverebbe a 2,80, 2,70, però è scarenata, io sono arrivato al massimo 2,60. Ah, poi... se è scarenata, allora, guarda, lasciamola andare, 2,60 hai detto? Sì, io sono arrivato a 2,60, è un po' preparata, però... Ok, ci fermiamo qua, altrimenti ti tracciano e ti vengono a prendere a casa. Ciao Massimiliano, grazie. Ciao, grazie. Andiamo a Bergamo, da Mirko, credo, Mario. Mirio, era proprio scritto giusto e io volevo fare quello che pensavano che avessero sbagliato a scriverlo. Scusami, che nome è Mirio però, perdonami. È un po' lunga la storia, arriva da Maria, una derivazione di Maria, insomma, un ricamo, mia mamma Maria doveva entrare a Mario, Mario gli piaceva, è uscito Mirio. Ma quindi se l'ha inventata tua mamma? Sì, però io ne ho conosciuti tre. Ah, però avete fatto un gruppo su Facebook? No. Senti Mirio, l'ascoltatore di prima si faceva sparate a 2,60, tu invece cosa fai? No, io molto più tranquillamente vado in giardino e mi curo i miei bonsai che mi rilassano. Quando sei teso un attimo, esci e loro ti ricaricano, capito? Senti, com'è che si deve... Io vedo sempre queste immagini, chiaramente, iconografiche di uomini giapponesi che tagliano bonsai senza sapere esattamente come farlo, ma hanno un'idea in testa. E come funziona? Come lo devi potare il bonsai? Non è facile dare una spiegazione così proprio su due piedi, perché certo, dipende dall'essenza, capito? Quindi c'è l'essenza che devi potare, quella che devi pinzare... Dimmi un altro termine che sono contento. Potare, pinzare, un'altra? Non so, invasare. Invasare, perfetto. Rinvasare, aggiungo anche annaffiare, così l'abbiamo fatto. Mirio, grazie mille, buona giornata. Anche a te, buon lavoro. Ciao. Allora, prima è arrivato un messaggio che diceva: non riesco a prendere la linea. Io libero la mente mettendo in ordine alfabetico i 50 stati americani di Alabama e Wyoming. Ora invece Anna è riuscita a prendere la linea. Pronto, Anna? Pronto. Ma è vero? Sì, allora faccio anche delle altre liste, ma quella lì mi viene particolarmente bene. Di dove sei, Anna, e che lavoro fai? Abito a Bergamo, come Mirio di prima. Sì. È un lavoro un po' complicato, è complicato. E quindi non hai voglia di... Non hai voglia di dircelo che lavoro fai? No, faccio la project manager in una società che si occupa di consulenza di design. Ok, quindi c'entra la consulenza, quindi hai chiaramente bisogno di rilassarti. Oltre a questa lista, che altre liste fai, scusami? Sempre prevalentemente geografiche, quasi sempre in ordine alfabetico, perché mi viene prima di dormire. Senti, non posso andare al cimitero come l'Anna di prima, anche se mi sembra una buona idea. Mi dici al volo i primi 10 stati in ordine alfabetico degli Stati Uniti? I primi 10, allora, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, con la B non ce n'è neanche uno, con la C ce ne sono 5, che sono Carolina. Anna, guarda, eccetera. Io volevo solo avere conferma del fatto che non eri una pazza, o forse lo sei, e comunque che fosse tutto vero. È vero. Anna, grazie mille e buona giornata. Ciao. Io ringrazio, oltre ad Anna, ringrazio anche Nicola da Milano, che era in linea ma non siamo riusciti a sentirlo. Purtroppo dobbiamo chiudere anche oggi. Grazie a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Pietro Lacorte. Trovate tutte le informazioni sul tappetino, ovviamente sul sito radio24.it o su Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Io intanto vi auguro un buon weekend, libero da oggetti e da pensieri pesanti, che alla fine un peso è sempre solo un peso. Love, love, love,